Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, comincia male la settimana azzurra e continua peggio questo periodo bianconero, visto l'esito degli accertamenti diagnostici cui sono stati sottoposti in mattinata a Firenze Buffon e Camoranesi. La faccio breve. Buffon, tutti e due accusano guai muscolari. Buffon dovrà fermarsi per 30 giorni almeno e per 15-20 giorni starà fermo Camoranesi. Una visita da Coverciano il professor Castellacci della Nazionale li ha accompagnati a Firenze. I due giocatori, ha detto Castellacci, sono out per quanto riguarda le partite, rimarranno qui in Nazionale in ritiro d'intesa con la Juventus fino a venerdì. E poi ha dettagliato questi infortuni rilevati da una ecografia e da risonanza magnetica. Buffon, una lesione muscolare tra primo e secondo grado all'adduttore destro. E per questo genere di infortuni normalmente la prognosi, ha specificato Castellacci, è di 30 giorni. Camoranesi, una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della gamba, a un muscolo del bicipite femorale della gamba destra. Problema più leggero, lo ha definito, e quindi 15-20 giorni. Se si pensa che alla ripresa, fermo restando che non giocheranno evidentemente in nazionale, ma che alla ripresa del campionato la Juventus è a Napoli e poi è attesa da Real Madrid e non molto tempo dopo anche dalla Roma, questa è una tegola di cui sinceramente Ranieri avrebbe fatto a meno. È martedì e quindi è il giorno dello sguardo sul panorama internazionale, oggi particolarmente articolato, tanto che inviterei il nostro e vostro amico e referente Fabio Tavelli a prepararsi agli straordinari. Sei pronto, Fabio? Eccomi qua, buongiorno a tutti, prontissimo. Un sommarietto in ordine sparso, che sono innanzitutto i sorteggi UEFA, i campionati in Europa con molte sorprese, molte new entry, le partenze di massa dai club per le rispettive nazionali. Stamattina la Gazzetta dello Sport si è presa la briga molto meritoria di contarli. Bene, dalla sola Serie A sono partiti 111 giocatori per le rispettive nazionali, con un primato dell'Inter che ne ha visti partire 16, 12 della Juventus, eccetera eccetera. Soltanto il Catania non deve cedere nessuno. Partiamo dalla Coppa UEFA. Io ti leggo i sorteggi dei tre gironi che riguardano le italiane e tu ci dai il coefficiente di difficoltà. Sì. Allora, gruppo E, Milan, Ereven, Braga, Portsmouth, Wolfsburg, Udinese, Tottenham, Spartak Mosca, Dinamo Zagabria e NEC Nijmegen, sì. Sampdoria, Siviglia, Stoccarda, Partizan e Standard Liegi. Ti direi Sampdoria, Milan, Sampdoria, Udinese e Milan insieme. Cioè, il gruppo più difficile è certamente quello della Sampdoria. Curiosamente, sì, cominciano tutte per S, tranne il Partizan. È vero. Però Siviglia e Stoccarda sono due squadre complicate. Ricordiamo ai radioascoltatori che ne passano 3 su 5, quindi sì, già questo abbassa il coefficiente di difficoltà. Sì, abbatte il coefficiente di difficoltà. però. Molto difficile. Allora, chiaramente per il Milan sarebbe un'impresa non riuscirci, e quindi il Milan andrà avanti. A parer mio andrà avanti anche l'Udinese, e la Sampdoria se la può giocare, insomma, può anche onorevolmente passare come terza. Io non di solito si dice sempre c'è sempre un girone di ferro, qui mi sembra che siamo un po' lontani come lega di metallo, perché sì. Così rapidamente, se vuoi, la Sampdoria ha certamente il Siviglia, che è una squadra forte, una squadra Champions League, una squadra che è organizzata, sì, per fare bene su tutti i fronti, e quindi non credo avrà dei problemi. Lo Stoccarda ha dato 4 gol, 4-1 al Werder Brema domenica, e il Werder Brema è lo stesso che ha così ben pareggiato a San Siro. Sì. Il Partizan è una squadra che se tu affronti a Belgrado è complicata, però non è impossibile se l'affronti in casa. Lo Standard Liegi è una squadra che dovrebbe arrivare quinta, e quindi diciamo che teoricamente la Sampdoria può arrivare seconda o terza in questo girone, se arriva quarta è un po' colpa sua. È anche vero che la Sampdoria sta andando non bene in campionato, quindi questa Sampdoria è a rischio, può far fatica anche l'Udinese se il Tottenham torna. Il Tottenham è una eccellente squadra, però è ultima in classifica in Premier League, sta facendo una fatica enorme, ha un po' perso le caratteristiche di gioco di quando eravamo. Devo dire che, avendo visto parecchie partite del Tottenham, hanno anche una discreta sfortuna, perché li ho visto colpire pali, traverse, non far gol in situazioni clamorose, quindi può anche essere che giri e che il Tottenham torni forte. Però l'Udinese è certamente più forte dello Spartak Mosca, più della Dinamo Zagabria e più degli olandesi del NEC. Il Milan secondo me merita una segnalazione, l'Herenveen, perché ha vinto 5-2 con l'Ajax domenica. Insomma, è comunque un bel modo di presentarsi. Poco o nulla dello Sporting Braga. Il Wolfsburg invece è una squadra che ha dietro una società che investe cifre importanti come capitali. Certo, hanno preso Barzagli e Zaccardo che forse non sono il meglio che c'è in circolazione, però comunque domenica hanno pareggiato 2-2 a Gelsenkirchen con lo Schalke, e prendendo tra l'altro gol al 93esimo su assist del portiere Neuer a Curani. E poi starei attento al Portsmouth, perché il Portsmouth è una bella squadra, il Portsmouth è una squadra pericolosa davanti a Jermaine Defoe e Peter Crouch, che domenica è tornato a segnare al volo in rovesciata. Crouch è quel giraffone che gioca nel Liverpool. Lui arriva dal Liverpool. Arriva dal Liverpool ed è uno che, pur superando i due metri, già tre volte, una volta in Champions League e due volte in campionato, è riuscito a segnare al volo in una girata che gli inglesi chiamano scissor kick, cioè il calcio che taglia, perché praticamente lui si è issato in aria, non è una rovesciata, è una mezza bicicletta, e lui l'ha fatto tre volte. E, per cui, insomma, il Portsmouth è una squadra da tenere in considerazione, tenendo presente che Ancelotti dovrà confrontarsi con Harry Redknapp del Portsmouth e con Magath del Wolfsburg, che sono due signori allenatori. Su questo non c'è dubbio. La trovo particolarmente ferrato, caro Tavelli, come se questo passaggio a Sky Sport, insomma, 24, cioè quello che rulla in continuazione, l'avesse, come dire, l'avesse tonificata. Eh? La ringrazio, lei è molto gentile. No, volevo riallacciarmi a questo Herenveen, o come diavolo si pronuncia. Sì, l'Herenveen. Ecco, perché lei l'hai appena citato, ha dato 5 gol, sì, 5-2 sì. Domenica all'Ajax. Volevo far notare, visto che l'ha beccato il Milan, che l'Ajax lo allena Van Basten, sì, e che ha 7 punti dopo 5 giornate. Sì, ma infatti l'Ajax è col Bayern di Monaco e la Juventus, la squadra grande o grandissima, più attardata nel panorama internazionale. Io non ho un'opinione altissima di Van Basten, come non ho un'opinione altissima di Klinsmann come allenatori. Sono stati diversi, in modo diverso, dei grandi giocatori. Van Basten è superbo e straordinario e forse irripetibile. Detto questo, l'Ajax ciclicamente poi deve andarsi a ricostruire, perché l'Ajax fa sempre la stessa politica e c'è la covata dei grandi giocatori e c'è la covata dei giocatori medio-bassi. Diciamo, certo, che siamo in questa fase. A parte Klaas-Jan Huntelaar, credo che non ci siano grandissimi prospetti da vendere, e anche Huntelaar, se è rimasto lì, forse non è che c'era la coda. Sì, è anche vero che dopo questo 5-2 Van Basten ha detto dei giocatori sono vergognosi, e questo mi sembra che rafforzi un po' quello che stavi dicendo, no? Sulle certezze che ci sono, che non sempre, insomma, un grandissimo solista può diventare un grande o semplicemente un bravo direttore d'orchestra. Al contrario, io faccio un inciso rispetto all'internazionale, perché le agenzie hanno appena battuto che Ballardini ha prolungato il contratto fino al 2011, quindi sarà legato al Palermo per 2 stagioni in più. La firma è avvenuta stamattina. Da questo momento credo che i bookmaker si occuperanno delle quote, no? Perché ha pur sempre firmato un contratto la cui controparte è Zamparini, insomma, che... Sì, è curioso, però devo dirti che se c'è uno sul quale io scommetterei davvero è proprio Ballardini. Ma siamo in tanti, se per questo, però uno su cui certamente si può scommettere è Zamparini. Però Gigi, sai, vecchie certezze cominciano a barcollare, perché sì, se dopo 6 giornate Cellino non ha ancora cacciato un allenatore... No, questo è vero, che qualcosa c'è nell'aria. Che era 0 punti, potrebbe essere una stagione di grandi cambiamenti. È saltato di passaggio, dai, definiamola. Esatto. È saltato invece, anche qui è questione di pochi minuti fa, è saltato Manolo Zambrano, allenatore dell'Huelva, Recreativo Huelva, che è il primo esonero della Liga. 0-4 in casa dal Malaga domenica scorsa, gli è stato fatale. Parlerei di sorprese, visto che più o meno le avevamo già introdotte, e mi pare ce ne siano due, una in Inghilterra e una in Germania, che stanno davvero facendo sensazione. Se tu pensi che l'Hull City non aveva mai giocato in Premier League, e quindi spesso ci divertiamo a dire l'Hull City non ha mai perso in trasferta, o l'Hull City non ha mai perso in casa, cioè è vero, perché l'Hull City è una squadra che non ti aspetti, che è arrivata quasi, ma non dico per caso, ma insomma è arrivata come fosse il Chievo, ecco, noi abbiamo questo esempio straordinario, sì, ma l'Hull City può vagamente ricordare il Chievo. Poi è chiaro che il Chievo ha fatto molto e l'ha fatto per molte stagioni, per parecchie stagioni, insomma, e la City è solo all'inizio. Però, insomma, avendoli visti giocare, avendo visto con che personalità, sia in casa che fuori, affrontano le grandi squadre, io credo che ci sia qualcosa dietro, anche perché rivitalizza, riporta in Premier League magari giocatori che qualche anno fa avevano fallito in club medio grandi, alcuni addirittura trattati malissimo dai tabloid inglesi. E invece è evidente che se il tuo allenatore ti mette in condizioni e la tua società ti mette in condizioni di giocare in un certo modo, se il pubblico ti sostiene, ti protegge, è chiaro che evidentemente la somma di valori non altissimi produce un risultato che è molto alto, cosa che succede anche a Hoffenheim in Germania, che a sua volta è staccato di 3 punti, perché sto vedendo, sì, Liverpool-Chelsea a 17 con l'Hull City a 14, sì, quindi 3 punti di distacco, e qui 3 punti all'Hoffenheim dall'Amburgo. Sì, sì, ma tieni conto che ad esempio in Germania si stanno un po' alternando le capoliste, adesso è l'Amburgo, settimana scorsa e 2 settimane fa era lo Schalke 04, è una Bundesliga che mette insieme come sempre stadi fantastici, pieni e anche discreto spettacolo, e soprattutto mette insieme ormai da qualche anno un bel equilibrio, a parte l'anno scorso con il Bayern di Monaco che era onestamente ingiocabile. Però complessivamente la Bundesliga sta regalando, secondo me, un campionato insospettabilmente bello. Poi è chiaro che è un campionato che si ferma per tanto tempo d'inverno, quindi non ti dà una continuità anche di passione, perché interrompere per così tanto tempo può non essere bellissimo per gli appassionati e i tifosi. Però è un dato di fatto certo che il Bayern di Monaco è abbondantemente nella parte destra della classifica, certo, ed è una squadra che in difesa fa venire davvero i brividi. Ha un portiere che insomma è la somma di Dida e Lehmann in questo periodo. Messi insieme. È uscito nel frattempo il calendario delle squadre italiane. Vi leggo soltanto la prima giornata. La Sampdoria debutta il 6 novembre in casa del Partizan. L'Udinese debutta il 23 ottobre in casa con il Tottenham, è sempre il 23 ottobre per tutti, 23 ottobre Partizan Sampdoria, 23 ottobre Udinese Tottenham, 23 ottobre Irenven Milan proprio, quindi la trasferta. A proposito di Bayern, Rummenig in un'intervista alla Bild assicura che Klinsmann gode della piena fiducia della società e conserverà il posto di allenatore almeno fino alla fine della stagione, nonostante le difficoltà che stiamo incontrando. Siamo pienamente convinti, ha aggiunto Rummenig, di Jürgen e della sua filosofia di gioco. Per noi resta l'allenatore giusto. Non risulta che abbia detto le stesse parole a proposito del portiere. Alberto da Modena manda un messaggio a cui qualcuno è libero anche di non credere, ma dice: Tavelli è bravo, ma noi del 4 ottobre 99 lo preferiamo in radio. E mi sembra un grande complimento questo. Lo ringrazio tanto. Sì. Magari ricordiamo cosa è successo il 4 ottobre del 99, non so, visto che... Eravamo tra i soci fondatori di questa radio, che soci nel senso non patrimoniale, ma insomma... Soci d'opera, bravissimo. Nel senso che, per esempio, noi due eravamo qui quel giorno in cui Radio 24 cominciò a trasmettere, quindi dato che il compleanno quest'anno è caduto di sabato e quindi un pochino più inosservato delle altre ricorrenze, siamo a quota 9 e il prossimo 4 ottobre è il decimo anno, tra l'altro. Faremo cifra tonda. C'è anche, poi i messaggi interessanti sono tanti, ce n'è uno carino a cui mi piaceva rispondere, lo farò dopo. Che dice: caro direttore, Cassano non convocato in nazionale è uno scandalo, ed è firmato Marco, molto affettuosamente, ma lei ha commesso un paio di errori. Primo perché i direttori sono altri, secondo perché scandalo mi sembra una parola un po' forte, è semplicemente una scelta, una libera scelta che si può o meno condividere. Torniamo in ambito internazionale, Fabio, con qualche notazione spagnola in particolare. Io partirei sia da Rossi, che in questo momento è già a Coverciano vittoriosamente, sia da Maresca, che per come sta giocando a Siviglia rischia di andarci prima o poi. Sì, allora, intanto Marcello Lippi, a differenza dei suoi predecessori, è molto attento anche a quello che succede all'estero e penso anche che Maresca prima o poi, se veramente continua così, lui... da un lato il fatto che Marcello Lippi lo conosce, però può anche non essere un vantaggio, perché sì, forse Maresca ai tempi della Juventus aveva un grado di maturità inferiore, anzi sì, toglierei il forse, rispetto ad oggi. Io penso che questa esperienza in Spagna l'abbia davvero migliorato, e tanto per dire qualcosa, cioè Maresca a Siviglia è un giocatore davvero importante, è un giocatore che lì ha vinto una Coppa UEFA, lì ha lavorato con Juan de Ramos, lui lì ha veramente trovato una dimensione importante. L'unico problema potrebbe essere inserire un giocatore più evidentemente giovanissimo e che è di personalità molto forte in un gruppo che ha tutta una serie di parametri che Marcello Lippi ha piano piano costruito nell'esperienza che poi ha portato alla vittoria del Mondiale e poi sta ricostruendo. Quindi potrebbe non essere un elemento facile. Credo che Lippi voglia inserire soprattutto giocatori giovani e la chiamata di Santa Croce, la chiamata di Pepe, la chiamata di Maggio, la chiamata di Giuseppe Rossi sia in funzione di questo. Sì, già che ci siamo, a prescindere magari anche dal momento di forma particolare, perché se c'è un giocatore che oggi sta deludendo nella fattispecie il Napoli è certamente Santa Croce. Sì. Sia per rendimento, sto pensando a è talmente disperato in difesa Lippi che deve provare provare, perché mai come in questa fase storica il calcio italiano non riesce a produrre difensori né centrali né all'altezza. Esatto. E Santa Croce, che l'anno scorso sembrava una grande promessa, quest'anno sta mantenendo pochissimo anche sul piano dell'autocontrollo nervoso, però è una scelta che evidentemente Lippi aveva fatto e tanto vale provarla davvero, davvero sul campo. In che altro paese ci spostiamo? Ma guarda, stiamo in Spagna, Gigi, perché dicevi di Giuseppe Rossi. Intanto Giuseppe Rossi, ieri sera a Coverciano il raduno era entro mezzanotte, Giuseppe Rossi è arrivato nel tardo pomeriggio, quindi questo è già un segnale. Certo. Giuseppe Rossi, curiosamente, sabato il Villarreal è andato sotto in casa 1-0 e dopo un'ora di gioco il suo allenatore ha tolto Giuseppe Rossi, che non stava demeritando, ha cambiato tutti e due gli attaccanti e il Villarreal ha vinto 2-1, ma questo non vuol dire veramente nulla, perché Giuseppe Rossi ha davvero ormai una dimensione europea, un giocatore che dà del tuo al pallone come pochi. Direi che la Spagna ha vissuto soprattutto la sfida incrociata Madrid-Barcellona e l'ha vinta Barcellona grazie a quella partita non comune che si è giocata sabato al Camp Nou, perché la partita dopo pochi minuti era già sul 3-1, poi è diventata sul 5-1. Non so quanti di voi l'abbiamo vista tutta, però se non l'avete vista tutta vi segnalo nel secondo tempo un'azione veramente pazzesca di Messi, addirittura più bella rispetto ai gol segnati, dove lui si è portato a spasso tutta la difesa dell'Atletico Madrid, è arrivato davanti al portiere e lo ha graziato in maniera veramente clamorosa, nel senso che l'ha messa leggermente fuori. Sì, ma il tutto a una velocità, danzando calcio, come avrebbe detto una volta l'indimenticabile, danzando calcio, ma a una velocità supersonica, perché lui va veramente a una velocità spaventosa e va in verticale quando quindi veramente uno spettacolo assoluto. Il Camp Nou ormai è diventato forse più di quanto non era ai tempi d'oro di Ronaldinho, per come si sta godendo questo ragazzo. Sì, lui è in un momento davvero pazzesco e credo che tutti i tifosi di calcio debbano fare comunque sempre una preghierina perché lui stia bene fisicamente, perché quello che ci fa vedere è sempre di valore assoluto. Devo dire che mi fa anche piacere che si stia valutando positivamente il lavoro di Pep Guardiola, che è un lavoro certamente in profondità, che forse Guardiola riesce a fare solo perché è Guardiola, cioè solo perché lui al Camp Nou ha una credibilità e una spendibilità immense per quello che ha fatto da giocatore, perché non so quanti avrebbero resistito dopo le prime giornate nelle quali il Barcellona un po' balbettava. Lui riesce a tenere fuori Henry, riesce anche a non convocarlo, lui riesce in questo momento a inserire benissimo anche Bojan, a dargli tanti minuti di gioco, riesce a fare parecchie cose e soprattutto ha messo se stesso in campo con le sembianze di Xavi. Xavi è un giocatore che viene leggermente oscurato dalla bravura di tanti suoi compagni, Xavi è un giocatore pazzesco, che non ce ne sono mica tanti in giro. E poi il coraggio di Guardiola di aver inserito questi ragazzi della cantera in difesa, insomma. Guarda, ho letto su un giornale questa mattina un articolo molto intelligente, credo l'abbia scritto Paolo Condò, lui diceva noi all'estero mandano via Vieira per far giocare Fabregas all'Arsenal, mandano via Ronaldinho per far giocare Bojan e noi invece facciamo i contratti crepuscolari a giocatori di 32-33 anni. Credo ci fosse un riferimento torinese. Sì, torinese, ramo juventino. Non torinista. Non torinista, infatti. Ma hai detto bene, era un articolo intelligente, quindi era molto probabile che fosse, essendo della Gazzetta, che fosse firmato Paolo Condò. Chiudiamo per oggi, Fabio. Va bene, chiudiamo per oggi, perché la panoramica è stata molto ampia, molto ricca, potrebbe continuare, ma insomma vorrei dare spazio prima dell'intervallo di borsa a un paio di ascoltatori e poi la aggiorniamo in chiave di nazionale invece nei prossimi giorni. Sì, volevo solo dirti, ma ne abbiamo già parlato settimana scorsa, visto che tra poco parli di borsa, che qualche anno fa divenne famoso il padre di un ragazzino inglese che andrebbe denunciato, il padre, non il ragazzino, per aver quotato in borsa la possibilità del suo bimbo di diventare un calciatore. Ora non sappiamo se l'investimento sarà positivo o negativo, però tornando a Maradona, Agüero, Giannina, pensa a quotare il nascituro, certo, se sarà il future. Io lì se sarà maschio. Comunque l'ultima che gira è che l'Inter stia cercando Agüero e approfittando della parentela di Maradona, sai che Moratti ha avvicinato Maradona e potrebbe dargli degli incarichi. Come agente per il Sud America, sì, perché in effetti non, avendo pochi attaccanti, l'Inter un pensierino potrebbe farlo. Dovrebbe pensare per tempo. Grazie allora Fabio Tavelli. Ciao Gigi a tutti voi. Chiudiamo il collegamento. Giacinto in linea da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Dica. Confermo che l'articolo era di Condò e parlava in riferimento alla Juventus. Io sono un juventino abbastanza frustrato, però non per niente stupito da quello che sta succedendo quest'anno, perché con il doppio impegno, il triplo impegno, insomma ogni tre giorni e il mercato fatto dalla società, penso che non avessimo alternative quest'anno. Però sono molto arrabbiato con la società, io effettivamente, perché ha dimostrato in questi anni non solo di sbagliare dal punto di vista l'acquisto, perché quello ci può stare, ma anche a livello di ingaggi. Mi ricordo il Boom Song a 2 milioni e mezzo di euro, lo stesso Thiago, gente che poi per prenderla gli devi sparare, perché non se ne andranno mai da una società dove guadagnano questi soldi qua. Quindi penso che la società, che ha speso tanto in questi due anni, debba veramente fare una presa di coscienza e farsi da parte, se non sono in grado di fare un mercato per una società importante come la Juve. Ma oggi, con tutto quello che poteva essere, La competenza di Moggi non è mai stata in discussione, infatti nessuno si è mai permesso di eccepire sulla competenza tecnica e calcistica di Moggi. I problemi, perché è la settimana della bontà, erano altri e li ripasseremo da gennaio in avanti nel processo che lo vedrà protagonista, sia pure involontario. Che il popolo juventino sia diviso lo dimostrano due messaggi, tra l'altro contigui, sono proprio arrivati uno dopo l'altro. 2 anni per passare dalla B alla Champions, credo che molti tifosi siano ingrati verso una società che di più non poteva fare, scrive Giada di Reda, anche se la firma è non è leggibilissima. Risponde Luciano da Biella: questa dirigenza non è azzeccata una. Quando arriva a litigare col Torino per strappare un giocatore del Livorno, che mi sembra sia Knežević, si capisce quale sia il livello di competenza tecnica del trio bianconero. Io credo che siano vere tutte e due le cose, sia quella che scrive Giada, sia quella che scrive Luciano. C'è una voce da ascoltare che è appena arrivata mi segnala Flavio Suardi, appena arrivata da Coverciano, ed è quella del professor Castellacci, che annuncia questi due nuovi guai sia per la nazionale che in prospettiva ancora di più per la Juventus. Per quanto riguarda Gigi Buffon, abbiamo trovato con esami ecografici e con la risonanza magnetica una lesione di primo lineetta secondo grado, cioè tra il primo e il secondo grado, dell'adduttore lungo, il problema che già lo affliggeva, e abbiamo trovato questa lesione di primo secondo grado, per cui chiaramente è un attimino out per quanto riguarda il gioco. E per quanto riguarda Camoranesi, invece, sul bicipite femorale al terzo distale abbiamo trovato una lesioncina di primo grado, quindi un attimino più leggera. Questo comporta che da un punto di vista del gioco chiaramente sono out tutte e due, però i ragazzi preferiscono rimanere un attimino con la squadra almeno fino a venerdì per stare un po' con i compagni e nello stesso tempo iniziare le cure, e tutto questo naturalmente in sintonia con la società, con la Juventus, che chiaramente è stata avvisata e concorda su tale decisione. In buona sostanza, tra un attimino e l'altro, Camoranesi se ne fa per 15-20 giorni, come si diceva all'inizio, Buffon per un mesetto buono. Prima dei due ascoltatori già in attesa, per la partita Napoli-Juve di domenica prossima, 19 ottobre, cioè dopo la sosta, giudicata ad alto rischio, è prevista l'eliminazione del settore, Non in senso fisico, del settore ospiti dallo stadio, quindi in pratica non ci sarà pubblico juventino e quel settore sarà riutilizzato per favorire eventualmente, si specifica, la presenza di famiglie, ragazzi e anziani. In più vendite dei biglietti nella sola provincia di Napoli e se ritenuto necessario stoppa la vendita dei biglietti entro le 19 del giorno precedente la partita. Considerate gare a rischio e non ad alto rischio, nella stessa giornata Torino-Cagliari, Roma-Inter, Bologna-Lazio e Reggiana-Verona, per tutte queste partite è prevista vendita di biglietto singolo con individuazione delle ricevitorie per gli ospiti. Massimiliano da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Ascolti, io le chiedevo questo, un'osservazione ma anche una domanda a lei. Io ho 40 anni nella mia vita e mi è capitato a volte di sbagliare, ammettere tranquillamente di aver sbagliato, la mia vita è andata avanti uguale a prima, non è successo niente. Non riesco a capire perché la dirigenza della Juventus non possa tranquillamente ammettere un errore, ci può stare, lasciando stare se è meglio o peggio di quella di prima, perché ovviamente io sono il primo, essendo juventino da sempre, a capire da solo che siamo lontani anni luce dalla Juventus di Zambrotta, Cannavaro, Vieira e giù di là tutti gli altri giocatori. Però non capisco perché una dirigenza non possa ammettere un errore, ma la campagna acquisti di questa estate è stata imbarazzante e lo dimostra il fatto che Ranieri ogni partita si inventa un centrocampo così a tentoni, perché quello di Coppa Campione un bimbo di 2 anni avrebbe capito che non stava in piedi, infatti a metà partita l'ha cambiato. Ultima cosa, poi ascolto la sua risposta, in riferimento a quello che lei diceva prima del settore juventino che non sarà disponibile a Napoli, poi sicuramente lunedì mi sentirò dire sui giornali e varie questori di varie città non è successo niente, per forza, i tifosi ospiti non c'erano, ovviamente non è successo niente. Sì, io credo che molte società dovrebbero dar retta ai loro tifosi, in che senso? Che mi sembra che i tifosi hanno la ricetta magica sempre pronta, no? Il bambino di 2 anni che avrebbe indovinato il centrocampo, la campagna acquisti che era imbarazzante, forse bisognerà arrivare ai sondaggi o alle consultazioni allargate per decidere e invece mi pare che non funzioni così e che ogni tanto si indovini e ogni tanto si sbagli. Certo la Juventus quest'estate non ha indovinato molto, su questo non c'è dubbio. Che fosse poi così facile indovinare invece è da vedere, perché poi va tenuto conto anche della compatibilità che certi acquisti potevano avere con i bilanci della società, che fino a prova contraria le società responsabili le tengono presenti, a differenza magari di altre. Da Brescia, Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Io ovviamente le faccio i complimenti, è 2 anni che la seguo e veramente le faccio complimenti sinceri. E i miei complimenti poi capirà perché glieli faccio. Glieli faccio perché volevo parlare di Mourinho, dove mi sembra, anzi dove secondo me i suoi ragionamenti, dove lei lo attacca spesso e volentieri, lo attacca come un allenatore secondo me che parla troppo e che combina poco. Però secondo me manca una parte di ragionamento, oppure l'ha fatta e io non l'ho sentito, e mi scuso se non l'ho sentito. Allora, secondo me le pressioni che ha un allenatore in una grande squadra sono sicuramente maggiori e più notevoli rispetto a quelli che possa avere Mazzarri, che possa avere Ballardini, che possa avere Zenga, che possa avere Marino. Per cui noi abbiamo parlato di pressioni e non abbiamo detto che sicuramente non ha ancora lavorato sulla difesa. E il Chelsea ha sempre fatto, quando era il Chelsea, quando andava in vantaggio non pigliava più gol e vinceva sempre la partita, spesso e volentieri nella maggior parte dei casi. E da terzo noi diciamo che comunque in campionato è primo ed è primo anche in Coppa Campioni. La ascolto e la saluto vivamente e le mando ancora un apprezzamento al suo grande lavoro. La ringrazio Sergio, infatti l'Inter continua a restare, credo, la favorita, almeno dal mio punto di vista, la favorita abbastanza netta per questo campionato. A maggior ragione perché presto recupererà gli infortunati che mancavano in difesa e fino adesso oggettivamente è stata la difesa, non dico il punto debole, ma insomma il punto meno rassicurante della formazione. Dopodiché io continuo a pensare che se Mourinho vincerà questo campionato farà, come da pronostico, farà esattamente quello che ha fatto nelle ultime due stagioni Mancini, con una quarantata o una cinquantata di milioni di euro ulteriormente investiti. Niente di più al momento. Giuseppe ha chiamato da Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Le chiamo per questo motivo, unisco due cose molto attuali. Pare che, ho letto un articolo sul Corriere della Sera, che la crisi finanziaria delle borse abbia messo in difficoltà qua in Italia Unicredit con la squadra del calcio della Roma e altre banche o gruppi assicurativi con squadre straniere, inglesi e tedesche, relative proprio al bilancio di queste squadre. Per cui sta entrando anche il discorso di questa crisi direttamente nel mondo calcistico. Visto che la vostra è una radio che ha un occhio di riguardo per la borsa e in questa trasmissione per il calcio, se lei ha qualche sentore, qualche informazione su questo punto di vista. Informazione diretta no, posso provare a chiederla, possiamo indubbiamente, in uno di questi giorni era già previsto che avremmo fatto un giro d'orizzonte in questa chiave, che però insomma, perlomeno per quanto riguarda la Roma non è difficile anticipare, insomma, visto che le cose per Unicredit non stanno certamente andando al massimo, la sensazione che il rientro, no, il rientro, che è un rientro pesantissimo che la Roma deve mettere in preventivo nei confronti di questa banca, che in realtà poi Unicredit ha soltanto rilevato le esposizioni di Capitalia, ma insomma adesso si chiama Unicredit, mentre una volta la banca che scialava nei confronti delle società, in particolare il Centro Sud, si chiamava Capitalia e il garante delle operazioni si chiamava Franco Carraro. Che tutto questo sia destinato a rientrare, e a rientrare magari in termini più drammatici o comunque meno lievi di quanto si poteva pensare fino a qualche giorno fa, è indiscutibile. Credo che alla Roma questo problema se lo stiano ponendo in termini, se non ultimativi, pre-ultimativi. Il commento del direttore generale o dell'amministratore delegato, anzi della Sampdoria, Marotta, sul sorteggio che ha riguardato la Sampdoria per il girone di Coppa UEFA. Dal punto di vista qualitativo di valore dico che è un girone, a mio giudizio, molto difficile, soprattutto perché per esempio nella quinta urna, che dovevano essere pescate le squadre più deboli, abbiamo pescato lo Stoccarda, che come sapete ha rischiato di eliminare il Liverpool e quindi accedere addirittura alla Champions League. Per noi comunque è già un motivo di grandissimo orgoglio portare in giro in Europa i nostri colori, rappresentare la città di Genova, quindi questa è una cosa che ci inorgoglisce e direi ci dà degli stimoli e delle motivazioni molto forti. Però è altrettanto vero che gestire le due competizioni, Coppa UEFA e campionato, rappresenta per una società come la nostra, che non può allestire una rosa numericamente allargata, un impegno importante, e quindi il lavoro di Mazzari sarà sicuramente molto più difficile. Ricordo il girone: Sampdoria, Siviglia, Stoccarda, Partizan e Standard Liegi. Questo era il commento di Marotta, per cui ringraziamo Sky, che ringraziamo anche per il successivo commento al girone dell'Udinese. Vi ricordo che l'Udinese è inserito con Tottenham, Spartak Mosca, Dinamo Zagabria e NEC Nijmegen, e il commento del direttore sportivo Leonardi. Gli olandesi sono un po' come l'Udinese del calcio italiano, perché è una squadra che fa sempre della ricerca la cosa più importante, è una buona squadra. E per quanto riguarda gli altri sono un pochino più conosciuti. È chiaro che quando si arriva a questi livelli di competizioni non è che possiamo esprimere giudizio, noi dobbiamo incontrarle tutte con la consapevolezza che soltanto noi possiamo decidere le sorti del proseguio di questa competizione. Io ritengo che sia un girone equilibrato e l'Udinese può esprimere quel gioco che ha espresso finora con umiltà e voglia di sacrificarsi, può arrivare ad andare avanti. Il Milan invece giocherà con l'Irenve, con cui debutterà in trasferta il 23 ottobre, poi col Braga, col Portsmouth e col Wolfsburg tedesco. Abbiamo trascurato il ripasso, o meglio abbiamo fatto slittare di 3 minuti il ripasso di storie, curato come sempre da Nicola Filippone. Sembra ieri. 7 ottobre 1956, a Parigi, Ribaud conquista per il secondo anno consecutivo il Prix de l'Arc de Triomphe, prestigiosa classica del galoppo. dopo un inizio difficile, si rende protagonista di una rimonta strepitosa, mettendo in fila rivali quotati e tagliando poi il traguardo con un'accelerazione finale che manda in visibilio i circa 120.000 spettatori presenti. Per l'invincibile Puro Sangue è una delle ultime affermazioni in carriera, un exploit che convince anche gli esperti più scettici. Dopo Ribot, l'ippica non sarà la stessa. Se c'è un nome che perlomeno per noi italiani rappresenta l'ippica, certamente è Ribot. Mauro, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Sì, ascoltavo adesso 120.000 persone per Ribot e ho sentito le mie che c'erano non solo tra parentesi 50.000 Longchamp. Comunque il mio intervento era inerente alla sicurezza negli stadi. La mia proposta era vietare per almeno 2 anni tutte le trasferte. In questo caso sì, magari qualcuno rimarrà deluso, ma quanti bambini vengono portati allo stadio dai genitori sapendo che effettivamente possono non esserci problematiche che sono quelle che sono in uso ormai da tanto tempo. Grazie a tutti voi, buongiorno. Grazie a lei per un intervento oggettivamente condivisibile e assolutamente non contestabile. Sto cercando di orientarmi tra i tanti messaggi perché soprattutto quelli che riguardano la Juventus, ma anche questi che riguardano invece questi provvedimenti presi. Tra l'altro Roberto scrive: tra 10 giorni arriva Real a Torino e verrà ospitato su un campo di patate, bel biglietto da visite. Ma io credo invece, Roberto, che stiano rifacendo il manto erboso di Torino e che fosse un intervento già programmato e non mirato sul Real Madrid. Certamente lei ha ragione che sarebbe un pessimo biglietto da visita, ma l'intervento già ci doveva essere. Sempre a proposito di Juventus, la Stampa, mentre il quotidiano sportivo torinese si orienta sui sostituti a breve termine possibili per Ranieri e quindi parla di Vialli e di altri, alla Stampa invece sono convinti che la parola del presidente di Cobolli Gigli non tornerà indietro. Sicché parlano di un progetto per il prossimo anno che riguarderebbe per l'ennesima volta Prandelli, dico per l'ennesima volta perché Prandelli poteva andare alla Juve già prima di Capello addirittura, poi al posto di Deschamps e poi al posto di Ranieri, ed è un matrimonio che non si è mai fatto. Io dubito poi che si farà anche questa volta, perché ho la sensazione che Ranieri stia abbastanza bene dov'è e che la Fiorentina sia abbastanza convinta di come fa. La chiave di lettura che la Stampa, che Marco Ansaldo offre, è che i rapporti tra Prandelli e Corvino non sono più gli stessi da quando in estate c'è stata la spaccatura sul caso Mutu, che Prandelli ha bloccato mentre Corvino aveva accontentato lasciandolo andare alla Roma. Ma insomma, da lì a ipotizzare un cambio di panchina così eclatante e tra così tanto tempo, credo che al momento perlomeno ne corra. C'è in linea Riccardo, ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Senta, io un po' mi volevo ricollegare indirettamente a questo fatto della sicurezza, no? Chiamando un po' in causa quelli che sono sempre i protagonisti, cioè i calciatori. Sì. Allora si legge che Abbiati in un'intervista dice: io sono fascista, condivido gli ideali del fascismo. Ma questo in realtà, se fosse detto in un bar, sarebbe un conto. Poi, quando però, volendo essere modelli positivi per tutti, lucrate sugli sponsor degli sport, particoli sportivi, iniziative benefiche, bisogna ricordarsi che non è un senso unico, diciamo, uno status e la pretesa di essere dei modelli positivi. Ma quello che ancora più stupisce è la risposta di Galliani, di dire: ah, basta, fatela finita, quando il fascismo, io sono nato che il fascismo era già finito. Ma non può valere la vecchiaia o, diciamo, l'impostazione risalente che da Galliani vale ancor più per Abbiati. Se è finito per noi che contestiamo questo tipo di manifestazioni, dovrebbe ricordarsene per primo chi dice pubblicamente, chi assume pubblicamente certe posizioni. E lo stesso vale, mutatis mutandis, per De Rossi quando ricorda il suocero, insomma, questo volevo dire. Sì, quando ricorda il suocero e anche a sua volta alcune simpatie politiche che sembrano non così diverse, anzi rafforzative rispetto a quello di Abbiati, insomma sono... È un paese che mi sembra che di memoria questo ne abbia sempre un discorso che esula completamente da questa materia, ma visto che lei lo ha introdotto, mi sembra che questo sia un paese che di memoria ne ha sempre avuto abbastanza poca, soprattutto per le cose che contano, e mi sembra che ne abbia fatalmente sempre meno. Era una deriva inevitabile proprio perché di memoria ne ha sempre avuta così poca, e mano a mano che le generazioni, che col succedersi delle generazioni sono sparite o stanno sparendo i padri della patria, soprattutto i padri della patria costituente, insomma, vengono fuori gli abbiati, insomma, e le loro per carità legittime opinioni in quanto opinioni, discutibili in quanto vagamente conflittuali con la storia. Grazie a tutti per il vostro ascolto, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani.